Aqui a tribo seria distribuída e escolhida com sucesso e para o modo ao primo militar gênito e nevogênito e se tradiveram e cuidam barco bruto e ruente de que se caisse Il 2 maggio del 1972 la Domenica del Corriere pubblicava un'intervista destinata a fare scalpore. In essa un monaco benedettino e fisico, padre Pellegrino Ernetti, dichiarava di aver inventato una macchina del tempo, ossia un apparecchio in grado di intercettare e riprodurre scene, immagini e suoni del passato. Una specie di televisore storico, insomma. A mo' di prova, l'articolo era corredato da una presunta fotografia del Cristo morente. Secondo quella che sarebbe divenuta leggenda, a partire dagli anni 50 padre Ernetti aveva capeggiato un gruppo di 12 scienziati, di cui non rivelò mai i nomi con l'eccezione di Fermi e von Braun, nella ricerca e poi nella costruzione del mirabolante strumento. La sua teoria fisica, mai esposta in modo chiaro o scientifico, postulava l'eterna permanenza nell'atmosfera terrestre di tutte le onde visive e sonore prodotte nel tempo. Per captarle, dunque, bastava disporre di un sintonizzatore adeguato. Ovviamente nulla di tutto ciò fu mai provato, e anzi le prove che il monaco addusse per dimostrare l'avvenuta invenzione furono rapidamente smontate e smentite. La leggenda vuole che l'apparecchio sia oggi custodito nelle segrete del Vaticano. Il termine cronovisione, da molti erroneamente attribuito a padre Ernetti, in realtà fu coniato da un altro sacerdote fisico, Don Luigi Leonardo Borello. Anch'egli, a partire dagli anni 50, condusse ricerche analoghe, ma partendo da presupposti del tutto diversi. Illuminato dalla teoria dello spazio neutrinico del fisico Cesare Colangeli, Borello si convinse che la materia è in grado di memorizzare le onde visive e sonore che la colpiscono, serbando in modo permanente quella che lui definiva una traccia amnestica. Quando un'onda di energia colpisce la materia, in essa si produrrebbe una polarizzazione statica permanente. Detto semplicemente, un ricordo. Borello, che morì nel 2001, non giunse mai a costruire il cronovisore, tuttavia nei suoi esperimenti asserì di aver dimostrato l'esistenza delle tracce mnestiche. Se si eccita un blocco di materia dotato di memoria, il cosiddetto testimonio, un oscilloscopio rivela la presenza di quelle impressioni storiche. La teoria di Borello è oggi documentata in un paio di pubblicazioni che, purtroppo o per fortuna, ben pochi conoscono. Nei suoi primi mesi di vita, il progetto creato da Corvero non si chiamava ancora ECOS. La decisione di incanalare gli studi sulle sole onde sonore fu presa solo in un secondo momento, poco prima che io mi unissi al team. L'idea iniziale del presidente, come mi fu riferito, era quella di proseguire e portare a termine la ricerca intrapresa da Don Borello. Voleva costruire il cronovisore. Mente brillante e assetata di conoscenza, Corvero era rimasto letteralmente folgorato dai libri e dalle idee del sacerdote fisico, che sembravano poter finalmente realizzare un suo sogno antico e mai dimenticato. E se da un lato era un manager con tanta passione ma nessuna reale competenza in fatto di fisica, dall'altro la presidenza della Cliomedia gli assicurava le possibilità e i mezzi per finanziare un progetto in tal senso. La prima recluta fu Francesca, che tra le proprie referenze vantava una tesi di laurea scritta proprio sull'argomento solo pochi anni prima. A sua volta Francesca introdusse Enrico, Enrico cooptò Matteo e così via. Sempre, comunque, persone giovani e in qualche misura non digiune della teoria che tanto mi sconvolse al principio. Entro due mesi il gruppo fu al completo, me escluso, ed ebbero inizio le ricerche. In sostanza, dopo svariate analisi, stime e prove tecniche, giunsero presto alla conclusione che lo scopo iniziale, ammesso che fosse realizzabile, avrebbe richiesto molti anni. Per recuperare e quindi riprodurre le onde visive del passato era necessaria una macchina estremamente sofisticata, capace di leggere e convertire la luce. Furono Francesca ed Enrico, pare, a proporre un parziale cambio di traiettoria, un obiettivo più modesto ma anche meno complesso. Risvegliare e modulare le sole onde sonore imprigionate nella materia, nei testimoni, perché tornassero a essere udibili. Corvero accolse il suggerimento e gli altri lo seguirono a ruota. Fu allora che partirono gli studi sul neoformulato principio di eterna conservazione delle onde sonore e il progetto fu battezzato ECOS. Io arrivai di lì a poco. In quel primo anno alla Cliomedia il mio coinvolgimento nel progetto fu minimo, anche se non inutile. Corvero era stato lungimirante, prevedendo che in una fase successiva la consulenza di uno storico, e di uno storico che fosse anche persona fidata, sarebbe stata essenziale per il buon esito del progetto. Eppure reclutare uno storico troppo tardi, quando fosse già stato scoperto un sistema per il recupero delle onde sonore, avrebbe comportato enormi rischi di delazione e spionaggio. Chiamandomi per tempo, invece, garantì a se stesso e all'intera squadra la possibilità di studiarmi attentamente, e così di valutare se fossi degno di fiducia. Non c'è nulla di strano nel fatto che il presidente non abbia scelto uno storico fra i tanti che già lavoravano per la Clio Media. Voleva una persona nuova e giovane, criterio con cui del resto aveva reclutato tutti i membri dell'ECOS. Peraltro si trattava anche di una misura di cautela. Reclutare persone nuove ed estranee al personale della Clio Media avrebbe assicurato una discrezione e una segretezza maggiori. In effetti la mia situazione era più delicata. Lavorare anche al progetto di copertura mi esponeva al rischio di lasciarmi sfuggire qualcosa. Eppure me la cavai piuttosto bene, seguendo le istruzioni del presidente e facendo abile ricorso, quando necessario, all'esperienza e alle conoscenze dei miei colleghi ordinari. E poi scoprì presto che Corvero, tra le sue infinite risorse, aveva anche la rara dote di penetrare l'animo delle persone, di intuire se e quanto fossero affidabili. Ma alla fine, Dio solo sa come, questo sesto senso lo tradì. Quanto al requisito della specializzazione in storia romana, credo che non servano precisazioni. La Clio Media aveva sede a Roma, città che pullula di reperti antichi, e poi il progetto di copertura verteva proprio su Roma antica. Là fuori, nelle costruzioni, nei muri, nelle statue, si celavano sopite milioni, miliardi di onde sonore del passato. No, non eravamo noi a essere suonati, anche se ora lo vorrei più di ogni altra cosa. Kai Sundegger.